Allora, dici cosa sta avvenendo in piazza, qual è la tua esperienza dentro questa vicenda? Comunque sempre noi aspettiamo che la risposta vera, comunque, scusi, cioè, il mio gola sta male, però mi senti bene? Io sento benissimo, puoi dire tutto quello che vuoi. Sì, sì, noi comunque ha visto tante giornali scritto che noi agricoli che fare un casino, comunque noi che non hai, soprattutto gli eritrei e gli italiani e fratelli, i vostri nonni contro inglese, contro tutto, se fanno sbattere insieme, moriranno insieme, anche vivere il pace, ce l'hanno nella storia l'Eritrea, l'Italia. Tutti ti sei trovato coinvolto per tutti i quattro giorni lì a Piazza Indipendenza, insomma. Sì, sì, però. Sotto i soprusi e le manganellate di questi prepotenti. Gli italiani li penso io sempre come me, come i miei fratelli, come le mie famiglie, però di quella che ci sono di Piazza Indipendenza, proprio che una cosa proprio schifosi di quella che facciamo così. Quindi noi vogliono casa, noi vogliono vivere come tutti i romani, città, come tutti gli italiani. Come tutte le persone vogliono vivere normalmente, avere un alloggio, sì, sì. E noi vivere tranquilli. Anche adesso chiediamo a casa, vogliamo vivere. Ma adesso non come vi state mettendo, sì. Nel senso adesso dove, dato che vanno sgomberato dalla piazza, dove andate, sì, a ricoverarvi durante il giorno? Alla sì, notte. Detto che andiamo in questura, andato in questura, ha controllato i documenti, noi pensiamo che ti danno a casa, però ha detto no, che vai, vattene via, dove? Non lo so, parla con municipio o con comune. Comunque noi torniamo vostro residenza su Piazza. Bene, ti ringrazio. Tornato a Piazza di Vendetta, poi dove 5, dove 4 giorni anche arriva a sgombrare sul Piazza. Comunque così. Pronto? Scusa, interrompo, se fa. Sì, fai sentire le voci del corteo. Poi comunque ha visto su televisione tutti i minacci a Rivoli sotto con le forze, l'acqua, tutte le cose, con tanti carica soldati calciate via. Noi ancora sulla strada a Roma aspettiamo che la risposta vera. Qualcuno trova una soluzione? Ci credo poco. Se non siete voi stessi a reperirla la soluzione, perché questi non hanno mai affrontato i problemi a risolverli, ma a provocarli i problemi. Sì, non mi sento, scusa, va bene, ma non fa niente, va bene così, ti ringrazio. No, se troviamo tempo parliamo dopo, però adesso non mi senti. Benissimo, grazie, grazie, grazie. Pronto? Pronto?